Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari gastronauti e cari radioascoltatori. Siete pronti a partire per un giro d'Italia per il carnevale fra 2 settimane? Ebbene, vi aspettano dolci un po' ovunque, frappe, chiacchiere, bugie, cenci, crostoli, sfrappe, meraviglias. Ebbene, questa è semplicemente una carrellata di nomi con cui si chiama la stessa ricetta in giro per l'Italia. Bene, che viene identificata con questi nomi abbastanza divertenti, ma questo non è che l'inizio. Scopriremo durante questo viaggio una serie interminabile di dolci, soprattutto fritti, in giro per questa meravigliosa Italia, alla ricerca appunto di tanti carnevali. Ebbene, Venezia è famosissimo, così pure Viareggio, ma ci sono tante piccole manifestazioni in angoli sperduti di quest'Italia dove ci sono delle dolci veramente caratterizzanti appunto del luogo, e noi la andremo alla scoperta. Bene, però voglio cominciare questo viaggio con un discorso un po' particolare. Perché questo fiorire di dolci, soprattutto fritti, durante il periodo del carnevale? Perché? Perché questa analogia carnevale, dolci, carnevale, cibo? Ebbene, cominciamo a parlarne con il docente di teoria e pratica dell'antropologia dell'Università della Sapienza, il professor Luigi Lombardi Satriani. Buongiorno Satriani. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Senta Satriani, perché questo fiorire di cibo, di allegria attorno al cibo, soprattutto fritti durante il carnevale? Perché il cibo non è soltanto un alimento, che ovviamente è indispensabile per la sopravvivenza, è anche carico di simboli, è connesso all'idea del piacere, il piacere gastronomico, il piacere del gusto, e il mangiare dolci, mangiare altri cibi in abbondanza abnorme, rinvia al gusto della trasgressione. Il carnevale ha tanto più significato quanto più trasgredisce l'ordine costituito, e l'ordine sociale, l'ordine degli strati sociali che vengono annullati dalla maschera, e l'ordine delle norme che devono essere seguite, che vengono momentaneamente sospeso, e l'esasperazione del corpo, della corporeità, il principio del piacere. Il cibo del carnevale va anche collegata alle maschere. Senta professore, il problema del fritto è proprio questo, che è una vera e propria trasgressione, cioè il fritto viene sempre ritenuto da dietologi e da medici un qualcosa, per così dire, di proibito, e quindi è questa la motivazione principale. Anche questo, c'è proprio l'infrazione della norma e il concetto della trasgressione, che è costitutivo del carnevale ed è costitutivo anche della esasperazione della corporeità che avviene con le maschere, con i carri allegorici. Veniva citato prima il carnevale di Venezia, il carnevale di Viareggio, ma il carnevale di Putignano è uno dei carnevali più importanti dell'Italia meridionale, e questa esplosione di seni, di falli, di cosce, parti anatomiche, serve appunto a contrapporre a un corpo mortificato un corpo glorificato. Infatti, professore, a Putignano, come lei diceva, c'è così un'analogia molto interessante, perché la maschera tipica si chiama farinella e il piatto che si mangia durante quel periodo è la farinella, quindi sì, è un dolce molto particolare. E c'è anche proprio a Putignano l'esasperazione delle corna, c'è l'Accademia dei Cornuti, eccetera, perché l'esasperazione delle corna fa sì che il cornuto, che nella società meridionale è considerato invece un insulto, una categoria negativa, viene assunta e contrapposta agli altri. È sì, logico che è uno scherzo, certo. Gli scherzi non sono mai innocenti, rivelano questo bisogno costitutivo di trasgressione, naturalmente dopo la parentesi eccezionale del carnevale, poi ritornerà la quotidianità della norma, dell'ordine costituito e così via. Ma intanto abbiamo avuto questa sospensione rituale della normatività, abbiamo una sorta di regolata licenza, come è stata definita il carnevale. Grazie professore, la ringrazio, il professor Luigi Lombardi Satriani, la ringrazio molto di quello che lei ci ha detto, così ci consente appunto con questa introduzione culturale di andare avanti e di andare a scoprire in ogni parte d'Italia appunto queste peculiarità, come abbiamo detto, a Putignano, questa maschera che coincide con appunto questo piatto di cui poi ci faremo raccontare i contenuti, ma ci sono tanti altri carnevali importanti, perché ad esempio anche in Toscana durante il giorno del Berlingaccio si mangia il berlingozzo, e addirittura che è una ciambella, e in alcuni paesi appunto della Toscana il giovedì grasso si fanno girare in giro per il paese per punizione i golosi con una ciambella legata al collo. Quindi ci sono queste metafore davvero interessanti in giro per l'Italia. Ma ora andiamo nella città del carnevale, sicuramente più famoso non solo in Italia ma direi nel mondo, assieme a quello di Rio, il carnevale di Venezia. Beh, Venezia è una città molto golosa e dei dolci molto particolari legati al carnevale. Allora io lo chiedo a Irina Freguia del Vecchio Frittolin di Venezia, un posto importante per i veneziani di grande tradizione. Buongiorno Irina. Buongiorno Davide. Allora, mi racconti un po' dei dolci tipici veneziani appunto che avvengono durante il carnevale, che vengono proposti durante il carnevale? Abbiamo le fritole e i galani e anche una frittella di mele e cannella. Questi sono dolci praticamente fatti con materiali poveri, perché praticamente il carnevale sanciva la fine dell'inverno, per cui si cercava di festeggiare. Ecco, abbiamo queste cose che sono fritti. Fritti perché tanti fritti durante il carnevale? Perché si ammazzava il maiale e del maiale non si butta via niente, per cui c'era lo strutto per friggere. Questa è Sì, infatti tutti i dolci, quelli di carnevale venivano cotti e preparati, fritti appunto nello strutto. Oggi che, visto le norme dettate dai dietologi, da questi medici, insomma, tutti ci sconsigliano lo strutto, che io invece adopero regolarmente, soprattutto anche con le patate, in barba alla dietologia. E tu cosa ne pensi, Irina? Tu che sei una cuoca provetta. No, anch'io uso lo strutto ancora tipo per fare il pane, facciamo il pane e questo è un grosso aiuto e non è assolutamente pesante. Diciamo che ci sono cose che non si buttano via, che è giusto conservarle, naturalmente facendo attenzione, perché una volta c'erano fisici che consumavano molto di più, naturalmente. Addirittura mi risulta che in molti dolci di carnevale, almeno un tempo, nell'impasto veniva usato anche la sugna. Sì, certo. Ma volevo chiederti, fritole è dialettalmente significa anche altre cose nel veneziano. Sì, questo è vero, però è il nome che c'è. Ma viene dalla forma, forse dalla forma delle fritole, non so chissà da dove sarà derivato l'uno o l'altro. Senti, i galani, mi spieghi cosa sono i galani? I galani sarebbero le chiacchiere, quelle cose, quelle sfogliatine praticamente che vengono fritte, e si chiamano galani perché significa ricami, perché in effetti vengono fuori poi così, che sono come delle tendine, degli abbassamenti, degli abbellimenti. Cioè, la cosa strana è questa, che in molte parti si chiamano chiacchiere e bugie. Ecco, questo è un fatto abbastanza, in altri stracci, sfrappe, come abbiamo detto, ma chiacchiere e bugie probabilmente significa anche che, cioè, carnevale ogni scherzo vale, probabilmente, oppure è un significato. Io addirittura ogni anno ricevo un pacchetto appunto di chiacchiere che invitano appunto al dialogo con altre persone, quindi è un invito. Invece quello delle bugie credo che sarà una cosa molto particolare, che si può mandare a carnevale carnevale a qualche bugiardo, allora ci si manda questo come metafora, come in Romagna si manda il pagadebit, che è un vino molto particolare per chi si deve ricevere dei soldi. Io ti ringrazio Irina, grazie a te. Carnevale Irina Freguia del Vecchio Frittolin di Venezia. Grazie Davide. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di carnevale. Noi lo stiamo anticipando di 2 settimane proprio per fare così un viaggio con voi, cari gastronauti, cari radioascoltatori, per darvi delle indicazioni nelle mete dove andare appunto in questi carnevali, ma soprattutto quali dolci e cosa mangiare. Bene, ora andiamo nelle due isole, andremo così in un viaggio nelle due isole, andremo in Sicilia e Sardegna, dove veramente la tradizione è fortissima. E allora io vorrei cominciare a parlare in Sicilia e andiamo a Modica. Perché Modica? Modica ha un suo carnevale molto importante, tant'è vero che nel 1877 il barone Serafino Amabile Guastalla ha scritto addirittura un libro sull'antico carnevale appunto di Modica. E cosa ci racconta? Ci racconta anche alcune tradizioni, alcune consuetudini. Ci parla dell'ampagnuccata, che è un dolce siciliano di origine araba e ora, anzi, di origine saracena, credo. Ora ne parliamo di questo con Franco Ruta della dolceria Buonaiuto appunto di Modica, perché questa ampagnuccata, scritta così, che mi ricorda gli impanaticchi, è una scoperta, perché io sinceramente non la conoscevo, mentre conosco benissimo gli impanaticchi e tanti altri dolci appunto modicani. Buongiorno a Franco Ruta. Buongiorno a voi tutti. Franco, allora, questa ampagnuccata cos'è? Beh, l'ampagnuccata è, come dice proprio il Guastella, la scorrezione di... pinnocchiata o di pignolata, sì. Sì, perché in effetti una volta veniva fatta a forma di pigna, venivano utilizzati anche i pinoli e quindi ha preso questo nome. In effetti nella nostra tradizione l'ampagnuccata è fatta con una pasta all'uovo molto friabile, che viene fritta nella sugna, o come dice l'autore nell'887 nel grasso porcino, e poi viene amalgamata, confezionata con il miele di timo, che, come abbiamo detto in altre occasioni, è il miele principe della nostra area. Per continuare la tradizione e porgerla in un modo più, non dico accattivante, ma più facile da consumare, noi le facciamo in forma piccola dentro il perottino delle varie misure, e così è abbastanza consumabile ed anche trasportabile. Nel passato, volevo completare questa immagine, essendo un dolce di carnevale, veniva molto arricchito dalla famosa diavolina, e così i colori la rendevano più allegra. Bene, per rimanere in Sicilia, la cosa davvero divertente è che tutti quando andiamo in Sicilia amiamo mangiare, apprezzare il cannolo. Ebbene, la verità è che questo dolce famosissimo siciliano nasce proprio durante il carnevale, cioè per uno scherzo addirittura di carnevale, e viene così festeggiato il 10 di febbraio nel carnevale a Piana degli Albanesi. E cosa succede? Succede che era stato fatto uno scherzo, appunto si dice sempre che carnevale uno scherzo vale. Ebbene, un gruppo di ragazzi avevano messo dentro il cannolo, avevano messo della carta, e quindi mimando appunto bianca, mimando la ricotta che invece viene preparata. E quindi da questo scherzo pare, perché qui siamo sempre nelle leggende, le leggende sono un po', come posso dire, il sale della gastronomia e dei prodotti. Non so se il nostro amico Ruta è d'accordo su questa, anche su questa interpretazione del cannolo. Fermo questa cosa questo scherzo del cannolo, che ancora oggi si usa fare, ed è tradizione che riunendosi le famiglie o un gruppo di amici e tirando fuori i cannoli, questo ce lo chiedono nel momento del confezionamento, in uno dei cannoli in modo anonimo noi si possa inserire un batuffolo di cotone, che è ancora, diciamo, più accattivante. Sì, no, in effetti ho sbagliato, infatti devo correggermi, non era della carta bianca, ma era proprio il batuffolo di cotone, perfetto, sì. E l'altra cosa interessante sono, come dice sempre Serafina Amabile Guastella, al quale noi abbiamo dedicato a Modica il nostro museo etnografico, sono le teste di turco. Le teste di turco che lui qualifica come dolce caratteristico del carnevale, quindi il cannolo, l'ampagnoccata, le teste di turco e l'allegria. Bene, grazie al nostro Franco Ruta della dolceria Buon Aiuto. Bene, ora andiamo in Sardegna. La Sardegna credo che ha un primato, quello dei carnevali, tant'è vero che mi sembra che l'anno scorso la regione Sardegna aveva fatto una campagna proprio per invitare, andare a visitare i vari carnevali nei vari luoghi, nei vari borghi appunto di questa regione, addirittura dove ogni borgo ha un suo, diciamo, dolce completamente diverso, ha dei cibi completamente diversi appunto che emergono durante il carnevale. Allora noi ne parliamo con una persona che ha scritto molto su questo e che si chiama Claudia Zedda. Buongiorno Zedda. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. In particolare so che lei si è occupata appunto delle maschere che riguardano appunto le maschere di i Mumantones, dove io sono andato anche a visitare il museo a Mamoiada, conosco molto bene quella zona, quindi amo molto quella zona e lì è vero, è ricca sicuramente sia di carnevali che di prodotti appunto di dolci. La Sardegna e la zona di Mamoiada è molto ricca, io mi occupo di maschere e di leggende soprattutto, e quindi quando parli di leggenda parli di gastronomia, come dicevate poco fa, e parli naturalmente di tradizione e anche soprattutto di carnevale, perché il carnevale in Sardegna è abbondanza allo stato più puro ed è l'apoteosi della frittura, perché ogni borgo, ogni villaggio ha un proprio dolce tipico. Vero è che comunque esiste un filo conduttore che ci dice immediatamente che ci troviamo nel periodo del carnevale, quindi la frittura e la semola fritta in generale. Perché se volessimo semplificare, perché quando si parla di Sardegna c'è molta varietà, quindi in poco tempo è difficile essere precisi, se volessimo semplificare diciamo che nel periodo del carnevale soprattutto si creano principalmente due tipologie di dolci, una tipologia è quella delle sfoglie non lievitate, le sfoglie azime, che normalmente sono create con della semola e dello strutto, che è il nostro burro locale, e che vengono impastate finemente e successivamente fritte. La cosa bella di questo dolce, a parte il gusto che è sicuramente molto interessante, è il fatto che assumono una forma caratteristica, diventano o delle piccole trecce fritte o dei piccoli merletti, addirittura delle piccole spirali, quindi una pasticceria che quasi richiama una forma di artigianato, e le donne della Sardegna in questo sono sicuramente delle artiste. Quando poi il dolce viene arricchito ancora di più, si parla di piccoli ravioli, che in Sardegna normalmente si chiamano culurgiones, con diverse varianti linguistiche, e allora in questo caso parliamo di dolci ripieni di mandorla, o di glasse di mandorla o di impasti di mandorla. In alcune zone, come per esempio la Barbagia di Ollollai, si creano anche questi culurgiones ripieni col sambene e il sanguinaccio, cioè il sangue di maiale o il sangue di pecora addolcito, trattato in maniere particolari, che diventa poi un ingrediente della pasticceria sarda in alcune località. E poi invece abbiamo, che ne so, nella zona di Quarto Sant'Elena, nel Campidano di Cagli, quella che si chiama San Rosa e Mindula, la rosa col cuore di mandorla, ed è un dolce molto bello, non so se si conosce. No, dalla Sardegna io so i parafrittas, i fatti frissi. Sì, ecco. Sì, le zeppole, i fatti fritti, la zippula sostanzialmente. La rosa e mindula è una rosa, è proprio una rosa, viene creata con un impasto di farina e strutto e tantissimi altri ingredienti, è creata con una sfoglia e quando la si mette a friggere prende proprio la forma della rosa. Il particolare di questa rosa è che all'interno c'è un cuore di mandorla e quindi non solo è bella ma è anche particolarmente buona da mangiare, mentre per le zeppole di cui stavamo appunto parlando, si tratta di quella fase della pasticceria sarda lievitata. Ogni zona della Sardegna conosce la sua zeppola. quindi sono veramente ci sono variazioni ogni 100 metri, diciamo. Sì, purtroppo e per fortuna noi siamo molto diversi, certo, sia a livello di festeggiamenti, sia a livello di lingua, quindi i dialetti, e anche a livello di gastronomia. Sì, magari è lo stesso dolce, cambia il nome. Cambia il nome e cambiano in alcuni casi le componenti, certo, perché magari si può mangiare una zeppola aromatizzata con l'acquavite, quindi abbardente o fileverro, aromatizzata con l'arancia, o magari integrata con l'utilizzo di patata o di ricotta. Bene. E in base al tipo di il dolce cambia. Bene, io la ringrazio, grazie Zeda, ci ha dato veramente una panoramica straordinaria sulla Sardegna, dove, ripeto, c'è forse il maggior numero di carnevali. Grazie, e volevo ricordare il suo libro Creature fantastiche in Sardegna. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in questo itinerario tra dolci di carnevale, carnevali stessi. Bene, una notazione che ancora non avevamo fatto ed è molto importante dal punto di vista, se vogliamo così, storico-culturale. Il carnevale è una festa che nasce dalla tradizione contadina, e per questo che ci sono molte, diciamo, valenze simboliche legate a questo mondo agricolo pastorale, e ci sono moltissimi dolci che appunto si rifanno alla tradizione rurale. Infatti, perché è contadina, diciamo, questa tradizione? Perché in questo modo di festa si salutava la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera, la quale, secondo le credenze appunto popolari molto vissute nel mondo rurale, dava vita a un ciclo di stagioni opulente, feconde e fertile per la terra. E proprio per questo ora andiamo a scoprire qualche dolce, qualche piatto, chiamiamolo così, molto diffuso, specialmente nel centro Italia. Si può parlare appunto nelle Marche, ma anche in Abruzzo, ed è la cicerchiata. E appunto è un dolce, la parola stessa parla di cicerchia, ma io voglio chiederlo e voglio farmelo raccontare da Emanuele Forcone, che è un consulente pasticcere, addirittura 3 volte campione d'Italia di pasticceria, appunto è abruzzese, e a lui chiedo appunto cos'è la cicerchiata. Buongiorno Emanuele. Buongiorno. Allora, la cicerchiata è un dolce tipico abruzzese che il nome riprende proprio dalla tipica forma che ricorda dei ceci, e potremmo collegarla idealmente a quelli che sono gli struffoli napoletani, alla loro forma arrotondata, e sono composti da un impasto di uova fresca, farina, zucchero e aromatizzazione con della vaniglia. E una volta formato questo impasto si realizzano dei piccoli salamini con abbondante farina e vengono tagliati a dei piccoli dadini. Dopodiché si buttano in olio abbondante e bollente e vengono fatti friggere. Una volta che prendono la loro colorazione nocciola, vengono fatti raffreddare su un foglio di carta per assorbire l'olio in eccesso. Viene cotto del miele a una temperatura di 140 gradi, questo è un dettaglio molto importante per ottenere una struttura della pasta finale ideale. Vengono buttati dentro questo miele queste palline fritte e si cuoce il tutto fino a completa asciugatura. Una volta ottenuta questa pasta di palline e miele, si versa su un foglio di carta da forno e si aspetta un attimino il raffreddamento. Man mano che la massa comincia a raffreddare, cominciamo con le mani leggermente unte di olio a formare delle piccole montagnette. Questa, diciamo, è la forma un attimino più casalinga, anche se poi in realtà a livello di pasticceria si fanno delle forme ben definite in piccoli stampi d'acciaio. Ecco, Emanuele rimanga con noi, perché voglio andare a Napoli. Napoli è una città che sul fritto, sui dolci fritti, è veramente una delle capitali. Voglio andare dal mio amico Antonio Tubelli di Timpani Tempura, che ha scritto anche un libro appunto sulla cucina napoletana, sulle antiche ricette della cucina napoletana. Voglio sapere se trova delle analogie anche lui con, diciamo, con la cicerchiata nel napoletano. Buongiorno Antonio. Buongiorno Davide, come va? Bene, bene, tu come stai? bene, grazie, dimmi tutto. No, volevo chiederti se i dolci appunto napoletani durante il carnevale, sì, che sulle fritture voi siete abbastanza maestri, sui dolci napoletani. Sì, diciamo che tra i dolci fritti c'è la chiacchiera praticamente, che è questo impasto di acqua, farina, zucchero, sugna, vino bianco, aceto, quell'acidità, e quindi poi viene tagliata a triangolini, poi fritto, e accompagna il sanguinaccio, che è il dolce, diciamo, che oggi è divenuto per eccellenza il simbolo del carnevale. Cos'è il sanguinaccio? Il sanguinaccio ha un'origine, sino all'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, era questa salsiccia di sangue raggrumito, insaccato con riso, spezie, zucchero che veniva lessato e accompagnata poi a mangiarlo normalmente, così come si mangia una salsiccia. Poi dopo la metà dell'Ottocento diventa quello che oggi è più in uso, cioè questa densa crema a base di sangue di maiale con cioccolato e i canditi. Voi a Napoli avete anche il migliaccio durante il periodo del carnevale? Sì, poi abbiamo anche il migliaccio dolce nel periodo di carnevale, che la parola lo dice già, parte in origine col miglio, questo cereale che poi è andato in disuso, soppiantato dalla farina di mais, e oggi purtroppo lo si fa con la farina di mais il migliaccio. Il migliaccio è dolce, ma può essere anche salato. Quando è dolce è cotto nel latte, con bucce di arancia, pinoli, uva passa, amarene, e quindi è un dolce splendido. Però c'è anche la versione salata, che è fatta con i ciccioli, il formaggio, sia a cubetti che grattugiato, viene passato al forno, e poi c'è la versione fritta, che viene detta scagliuzzo. Ecco, rimane anche tu con noi. Ora andiamo sì, a Ferrara, perché a Cento di Ferrara c'è un altro carnevale molto molto importante, quindi la provincia di Ferrara sente abbastanza il carnevale e diciamo che anche le pasticcerie sono solite produrre dei dolci molto particolari. Andiamo da Romano Perdonati, appunto una pasticceria di Ferrara. Buongiorno Perdonati. Buongiorno. Senta, i ferraresi mangiano ancora tanti dolci durante il carnevale? Ma i ferraresi durante il carnevale mangiano solamente e comprano solamente il fritto. Ah, ecco, quindi va ancora molto in uso il fritto, sì. Sì, il fritto per carnevale, sì. Quindi si fa solamente del fritto, non comprano altro. Quindi in barba ai dietologi? Ma ne prendono un poco, ne mangiano poco, insomma non è che ne mangiano dei chili, però... Senta, lei frigge... Quello che si vende oggi per carnevale a Ferrara città, non a Cento non lo so, perché credo che Cento più o meno sia come Ferrara. Certo. Però si vende solamente del fritto. Senta, volevo chiedere, lei frigge con lo strutto o con l'olio? No, noi friggiamo con l'olio di arachide. Ho capito. Andiamo allora attorno, voglio tornare da Emanuele Forcone. Buongiorno Forcone, di nuovo. Volevo chiederle, la frittura, lei come la consiglia durante carnevale, con lo strutto o con l'olio? Beh, diciamo che preferisco l'olio, anche se in realtà molte tradizioni sono legate all'utilizzo dello strutto. Ecco, ci sono molti anche che nell'impasto mettono la sugna di solito nei dolci carnevaleschi. Sì, diciamo nel mio caso, essendo da una pasticceria un attimino più contemporanea, io utilizzo sempre del burro, perché l'utilizzo dello strutto è legato molto a delle tradizioni precise in determinate zone d'Italia. In Abruzzo lo strutto è un po' meno utilizzato. Antonio Tubelli, a Napoli tu con cosa friggi? Allora, io friggo, tu ben sai, con olio extravergine di olivo, ma in questo periodo di carnevale aggiungo sempre una noce di sugna, perché per celebrare il maiale, che noi lo celebriamo il 17 di gennaio, che è la giornata di Sant'Antonio Abate, amico degli animali, e lo porto avanti per il periodo carnevalesco, per simboleggiare questo grasso che poi terminerà con l'ingresso della Quaresima. Ecco, io voglio ricordare anche tanti altri diciamo dolci del carnevale, ad esempio lo scroccafusi a Montelupo nelle Marche, diciamo sono pallottoline fritte appunto nello strutto. Poi ho ricordato prima il berlingozzo appunto in Toscana, e volevo ritornare al nostro amico Tubelli, perché lui ha detto a Napoli si chiamano chiacchiere. Pensate in quante maniere diverse si chiamano lo stesso prodotto. Poi ci sono le castagnole anche, a Napoli si fanno le castagnole. Castagnole? Si chiamano le bombette qui a Napoli. E invece diciamo nel centro Italia, Forcone, come si chiamano? Ah sì, noi le chiamiamo castagnole, le facciamo fritte, ripiene di crema e passate nello zucchero. Bene, andiamo anche a Ferrara, da Romano Perdonati. Lì da voi come si chiamano? Castagnole anche da voi? Ma Dio, dipende, sì, si possono chiamare anche castagnole. Comunque soprattutto si frigge dei tortelli alla crema, tortelli alla marmellata, frittelle di mele, e crostoli, che poi possono essere chiamati chiacchiere. Ecco, ecco, infatti da voi si chiamano crostoli, è incredibile questa variazione. Poi abbiamo una linguista con noi, ci spiegherà appunto queste origini, perché è troppo divertente questo fatto. Poi ci sono anche le girelle con le mele, si potrebbe continuare, è incredibile, diciamo, la varietà appunto di dolci che avvengono in questo periodo. Poi ci sono le lasagnette in Emilia Romagna, per esempio, i costoli in Friuli Venezia Giulia, e poi ancora i cenci, appunto, che si chiamano in Toscana. Addirittura le chiacchiere in Sardegna si chiamano meraviglias. Pensate che bello questo. Forcone, nel centro Italia, oltre alla cicerchiata, quali sono i dolci che lei ricorda così carnevaleschi di questo periodo, insomma, del periodo da quando inizia Carnevale? Forcone, stavo chiedendo Forcone. Sì, no, dicevo appunto le chiacchiere, sì, che vengono servite solitamente spolverate di zucchero a velo. E una delle cose simpatiche che facciamo, mettiamo una salsa fatta a base di un liquore al Kems, che viene fatto ridurre sul fuoco con l'aggiunta di zucchero fino ad ottenere una sorta di salsa densa che viene servita a parte, e il cliente, una volta che porta il vassoio di chiacchiere a casa, lo mette sulle chiacchiere e le gusta con questo profumo di al Kems, oppure con delle salse al cioccolato. Tu Belli, volevo chiederti, c'è un piatto particolare al di là dei dolci appunto di Carnevale, o che tu, che sei uno storico della cucina napoletana, guarda, viene riferito a Carnevale? Il piatto di grasso per quanto riguarda il Carnevale è il migliaccio salato che ti dicevo prima. Ah, ecco, questo. Oppure si fa la lasagna, che questa grande profonda imbottitura di fior di latte, ricotta, polpettine, salame, fegatini di pollo e così via, la lasagna. E mi preme però sottolineare che qui la lasagna è fatta con pasta di semola, non con pasta all'uovo, per cui la pasta di semola tirata a sfoglia, e che diventa poi questa lasagna, la rende molto molto particolare. Quindi, come vedi, piatti molto abbondanti, molto grassi, tra virgolette, proprio per simboleggiare, certo, questo periodo. Quindi la lasagna da un lato, il migliaccio salato che già ti raccontavo dall'altro lato. Sono i due pendant, diciamo, di questo periodo carnevalesco nostro. Bene, grazie Antonio Tubelli, Timpani Tempora di Napoli. Grazie a Emanuele Forcone, grazie a Romano Perdonati. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di dolci. Ebbene, abbiamo detto che ci sono i nomi veramente divertenti appunto durante Carnevale. Dicevo che c'è un qualcosa che unifica un po' tutta l'Italia, che sono in alcune parti le chiamano chiacchiere, bugie, cenci, stracci, crostoli, frappe, sfrappe, meraviglias. Insomma, una cosa è incredibile, lo stesso dolce di Carnevale chiamato in maniera così tanto variegata, ma ce ne sono anche altri. Appunto, l'Italia è un po' il paese dei dialetti e delle tradizioni, quindi forse si spiega anche in questo modo. Ma è veramente curioso, ad esempio, che si chiamano chiacchiere e bugie. Io allora lo voglio scoprire assieme a una persona che sicuramente mi darà risposta. Buongiorno a Cecilia Robustelli, che è collaboratrice dell'Accademia della Crusca, nonché docente di linguistica italiana all'Università di Modena. Buongiorno Cecilia. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Tu sei golosa, io lo so, e quindi mi risponderai. spero. Perché si chiamano chiacchiere o bugie? Beh, senti, questa faccenda di tanti nomi, poi ti risponderò anche puntualmente, sì, proverò, di tanti nomi dati praticamente allo stesso cibo, allo stesso dolce, in questo caso non è un unicum, perché la lingua della cucina è popolata da geosinonimi, cioè da parole diverse che indicano la stessa cosa, proprio perché la variazione linguistica di cui parlavi prima in Italia è molto molto diffusa e dipende dai luoghi, dipende dagli abitanti, dipende dalla storia e così via. Pensiamo a anguria e cocomero, tanto, certo, per fare un esempio. Ma torniamo ai dolci. Tu mi dicevi bugie e chiacchiere, e io ci aggiungo tutti quelli che hai già citato prima. Sì, cenci, frappe, strappole, croste, certo, di galani, certo, lattughe, certo, e così via. È un dolce conosciuto anche in Polonia, tra l'altro, che ha un nome, io non pronuncio il nome polacco, però pronuncio la traduzione, Ali d'Angelo, che è molto carino, Ali d'Angelo per questo dolce. Sono tutti nomi che fanno riferimento, se si studiano un pochino per quanto riguarda la loro origine, a due caratteristiche del dolce, o alla forma o alla consistenza. Per esempio, fanno riferimento alla forma, certo, parole come cenci, sì, e anche lattughe, e anche galani, sì, e anche frappe, rispettivamente, sì, perché lattughe, perché la forma un po' così, con, sì, i bordi dentellati, ricorda la forma della lattuga. Più interessante, i galani, che si usa nell'area veneta, specialmente a Venezia, che verrebbe dallo spagnolo galano. Gala in spagnolo vuol dire, viene dal francese gal, divertimento, quindi divertimento, cosa leggera, e in italiano la gala indica, certo, una guarnizione leggera. Ancora con riferimento alla forma, come dicevo prima, i cenci. Ah, i cenci è divertentissimo, perché si dice che i toscani, e io appartengo a questa razza come potete sentire, non chiamerebbero mai con un nome aggraziato qualcosa, ma devono sempre chiamarle con il suo contrario. Quindi invece di chiamarle gale, per esempio, di chiamarle frappe, che anche questo è un francesismo, da frappe francese che vuol dire frangia, rovesciano e li chiamano cenci, proprio cose, no? Così morbide, di poca, poco di valore, poca consistenza. Ed è un termine che compare anche in un famoso vocabolario, il vocabolario del Panzini, che così glossa la voce cenci, cioè scrive questo accanto alla parola cenci: si dice in Toscana ciò che altrove si dice, galani, sfrappole, fiocchi, fiocchetti, nastrini, frappe, che è sfoglia tutta aggraziata di anice, burro, liquori e sbeccata a nastri con la rotella, che mi sembra una situazione divertente. E gli altri invece che fa riferimento alla consistenza sono i crostoli, sì, crustol a Ferrara, ma sì, forse qualche ferrarese lo pronuncerà meglio, e in Veneto, che dovrebbe venire da un latinismo, crustulum, che vuol dire dolciume, ma probabilmente c'è qualche intersezione con crosta, no? Da cui, certo, il nostro crostone, qualche insomma interferenza. E poi vedi che io stavo cercando di tenermi un po' lontana da rispondere direttamente alla tua domanda, chiacchiere e bugie, perché sono i due termini per i quali l'etimologia, cioè il significato, la storia della parola è un pochino più tortuosa. Chiacchiere, ma sembra che sia una forma breve per chiacchiere delle monache, quindi si faccia riferimento a qualcosa di leggero, quindi anche qui ci sarebbe la consistenza. Però, se pensiamo che il verbo chiacchierare è probabilmente una voce onomatopeica, cioè una voce che si forma dal dal rumore che si fa chiacchierando, chissà che chiacchiere non abbia anche questo un, bene, significato relativo alla friabilità, al rumore dello sgranocchiamento di questi dolci, chissà. Bene. Rimani con noi ancora qualche minuto, perché ora vado a Putignano, dove c'è un famosissimo carnevale, un posto noto anche per gli abiti da sposa, è la capitale degli abiti da sposa, Putignano, ma ha questo, diciamo, questo carnevale importante per una maschera che si chiama Farinella. Ebbene, Farinella qui coincide addirittura con un piatto, praticamente un piatto che dicevo prima della civiltà rurale, che ora ci facciamo spiegare dall'unico produttore, l'unico pasticcere che è rimasto, che lo produce dolce, perché è un dolce in via di estinzione. Buongiorno a Paolo Campanella. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Buongiorno. La farinella, sì. Cos'è questo dolce? È una farina. La farinella è una farina di ordine 10, non è un dolce, Sì? È un piatto, quindi. È una farina di orzo e ceci che vengono prima tostati e poi un po' salati e macinati. È una sostituzione del pane. Ho capito. Che si può associare a cose dolci o a cose salate. Noi qua la mangiamo con il sugo, come scarpetta, no? Invece di fare la scarpetta col pane, la mangiamo mettiamo la farinella. Oppure con le verdure lesse condite con olio. Oppure anticamente la usavano con lo zucchero e la facevano a modo di dolce. Capito? Ah, ecco, esiste una versione dolce, sì, allora. Sì. Oppure con i fichi freschi. Quindi, freschi inzuppati a questa farina e mangiati. Senta, e diventa un dolce. Lei è rimasto l'unico produttore, perché? Sì. Perché è molto lungo, cioè il, diciamo, ci vuole molto tempo per fare questo dolce? No, no, no, no, e il problema è che è un più povero, no? E dunque la gente mangia sempre meno queste cose più ricercate, più, più si deve sedere a tavola, devi preparare, è una cosa più, capito, più complicata da, da produrre, da mangiare, capito? Senta, ma lei la fa durante il periodo di carnevale o tutto l'anno? No, no, no, io tutto l'anno la faccio. Quindi la produce tutto l'anno? Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, perché questa è una della generazione che noi facciamo, eh? Io sono il quarto della mia generazione. Bellissima questa storia, Campanella, mi fa molto piacere che ci sia qualcuno ancora che porta avanti queste tradizioni straordinarie. Senta, il carnevale è molto importante a Putignano. Sì, sì, sì, no, sicuramente è la principale attrazione, no, turistica del paese, no? Quindi sicuramente in questo momento si vede il turismo, diciamo, di più qua a Putignano. Bene, allora io le auguro di vendere tantissima farinella e continui a mantenerla così. Bene, grazie a Paolo Campanella di Putignano, pasticcere di Putignano, anzi ha un negozio di specialità gastronomiche, scusate, non è pasticcere, e grazie alla mia amica Cecilia Robustelli perché ancora una volta ci ha fatto chiarezza appunto sui nomi. Allora, dopo aver parlato tanto di chiacchiere, terminiamo queste chiacchiere, io vi do appuntamento domani al Riposo del Guerriero alle 11.30 e ogni giorno con la pillola alle 11.05. Un buon weekend e aspettate 2 settimane a mangiare tutti questi dolci di cui avete sentito parlare. Grazie da Davide Paolini.